Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e siamo in diretta come ogni anno, anche quest'anno, dal Vinitaly, quindi la fiera più importante in Europa assieme a Bordeaux, in Italia sicuramente l'unica per quello che riguarda il mondo del vino, un mondo del vino che, come abbiamo già ricordato in altre puntate, è una specie di oasi felice, nel senso che ha fatturati in aumento, utili in aumento, non conosce crisi, compensa il calo della domanda dei consumi interni con un'esportazione che va benissimo. E diventa anche sexy o appealing per gli investimenti stranieri. Sembra infatti veramente di essere in un altro paese quando parliamo con i produttori, perché rispetto a altri settori produttivi, la meccanica, la moda, l'automotive e quant'altro, qui la crisi, lo dico con una certa soddisfazione anche, non si è praticamente mai vista, nemmeno nel 2009 con delle contrazioni marginali. E allora, 46esima edizione del Vinitaly, siamo al padiglione 3, C3, da Ferrari, le cantine Ferrari, per chi volesse venire a trovarci. E parleremo chiaramente anche e soprattutto di un settore che rappresenta la prima voce nella bilancia commerciale italiana, 4 miliardi e 4, record di esportazione toccato l'anno scorso, e quindi cruciale non solo per chi vi lavora, ma per tutta l'agroindustria italiana e per le nostre esportazioni. La giornata economico-finanziaria oggi per fortuna è abbastanza tranquilla, il che ci permetterà anche di approfondire altri temi. Le borse più 0,70% Milano, più 0,70% anche Parigi, e per quello che riguarda invece l'America siamo con variazioni, adesso ve le daremo tutte positive. L'euro su dollaro è a quota 1,33, e l'America nello specifico fa sullo Standard & Poor's lo 0,96% di rialzo, fa lo 0,96% anche sul Dow Jones. Dicevo, borse positive per quello che riguarda casa nostra: Azimut più 4,60%, Luxottica più 3,30%, Impregilo più 2,60%, Saipem più 2,5%, Parmalat più 2%, come Ansaldo CTS, l'1,80% lo guadagnano Snam, Rete Gas e Telecom Italia, ma anche Terna. Infine Campari, visto che siamo al Vinitaly, più 1,70% come Eni. Tra chi perde sul mercato oggi, ricorderemo poi altri titoli, ma in particolare Finmeccanica perde l'1,5%, Intesa San Paolo l'1,30% come UbiBanca, e A2A Salvatore Ferragamo l'1,1% di calo come Mediobanca. E dicevo, l'euro a quota 1,3326, ci occuperemo anche della missione del Presidente del Consiglio in Asia, iniziata ufficialmente oggi, e delle purtroppo addizionali IRPEF che stanno per scaricarsi sui contribuenti italiani, con un impatto, e qui ci ricolleghiamo poi al tema del Vinitaly, sui consumi non da poco. Subito le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il petrolio è in leggero rialzo a $107 al barile, l'oro stabile a $1,662 l'oncia. Per quello che riguarda l'evoluzione europea della crisi, oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto in un'intervista alla BBC che l'uscita di Atene dall'euro sarebbe catastrofica, e poi secondo il Financial Times invece la Germania sarebbe pronta a rafforzare il cosiddetto firewall, quindi il muro di sbarramento contro gli attacchi speculativi. Serve molto tempo per superare la crisi, ha detto poi nel pomeriggio Angela Merkel, rispondendo a una domanda sull'idea, l'ipotesi di alzare, diciamo, la quota di soldi, 500 miliardi di ESM in questo momento messi per proteggere l'Europa, l'area euro, da eventuali attacchi contro i debiti sovrani. Registriamo comunque un leggero cambio di posizione in Germania, vedremo poi quanto consistente. Forse anche i tedeschi si sono accorti di quanto molti nostri ospiti dicono da mesi, che se frena tutta l'Europa, Spagna, Italia, oltre che Portogallo e Grecia e anche la Francia, l'export tedesco per il 50% proprio nell'area euro va, e quindi sono dolori anche per la Germania. Dicevamo di Mario Monti in Asia, il road show, la presentazione dell'Italia, dell'Italia di Monti, dell'Italia delle riforme. È un road show che il primo ministro e il presidente del Consiglio ha promesso anche una volta effettuate altre riforme, vuole illustrare l'Italia al resto del mondo. Comunque, il terzo impegno dopo quello in Europa e negli Stati Uniti, prima tappa ieri in Kazakistan, oggi la Corea, domani il Giappone, poi la Cina, dove Monti si fermerà per quattro giorni. Le dichiarazioni più interessanti secondo me arrivano da Seul. Ha detto Monti: non sono come Andreotti, il mio obiettivo non è tirare a campare, a noi è stato chiesto di fare un'azione nell'interesse generale. Un illustrissimo uomo politico che era Andreotti diceva: meglio tirare a campare che tirare le cuoia, per noi nessuna delle due espressioni vale. E poi la riforma del mercato del lavoro. Mario Monti oggi è tornato a definirla equa ed incisiva. Il segretario della UIL Luigi Angeletti invece è convinto di trovare in Parlamento un miglior ascolto sulla riforma del mercato del lavoro, visto che non c'è stata alcuna possibilità di soluzione trattando con il governo. La CISL e la UIL hanno fatto un po' retromarcia rispetto al primo accordo sulla riforma del mercato del lavoro. Comunque, mentre l'aumento delle aliquote contributive per i collaboratori, che passeranno dal 27,7% attuale al 33%, nel 2018 si scaricherà, secondo la CGIL, sui lavoratori, perché le aziende, in assenza di un compenso minimo, cercheranno di lasciarlo inalterato, facendo pagare l'aumento tutto al collaboratore. E adesso parliamo di un'iniziativa che ha visto assieme il gruppo bancario BNL e il gruppo editoriale Feltrinelli. EduCare, giocato un po' sull'inglesismo EduCare, cioè avvicinare la cultura finanziaria a un pubblico che di solito dalla cultura finanziaria è molto, molto distante. Presentata oggi nella sede della BNL, ascoltiamo al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, l'amministratore delegato di BNL, Fabio Gallia. EduCare è un'iniziativa che è nata ormai 4 anni fa e l'idea ci è venuta sostanzialmente analizzando quella che era una ricerca che specificava come gli italiani ancora hanno difficoltà, disagio nell'affrontare scelte di tematica finanziaria. E abbiamo poi visto come questa mancanza di consapevolezza non fosse soltanto un problema italiano, ma evidentemente fosse anche comune ad altri paesi. Per cui, fedeli al nostro obiettivo di fare delle cose concrete, abbiamo iniziato ad aprire le nostre agenzie a tutti i clienti e a chiunque volesse in qualche modo partecipare per affrontare tematiche semplici, concrete, legate agli investimenti e legate all'indebitamento. E quindi così è nata, si è sviluppata fino ad arrivare a circa 1800 eventi che sono stati fatti in tutta Italia, da nord al sud, a est e ovest, e abbiamo negli ultimi anni anche aperto al mondo delle imprese, anche qua con un'osservazione molto semplice e concreta, legata al fatto che vediamo che ancora molte aziende, quando vanno all'estero, non utilizzano tutti gli strumenti che sono a disposizione per i nostri imprenditori, per cui anche in questo caso abbiamo semplicemente fatto da ponte, cercando di avvicinare la banca con le sue competenze alle imprese. E sentiamo sull'iniziativa anche Carlo Feltrinelli, che è appunto presidente delle librerie Feltrinelli, sempre a microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Ogni anno noi organizziamo circa 3500 eventi gratuiti, praticamente tutti i giorni nelle Feltrinelli, quindi credo che siamo un asset importante dell'economia, della conoscenza di questo paese. Ci ho detto, accogliere un'idea che mi sembra nobile e lungimirante come quella di fare dei corsi di educazione finanziaria, mi sembra una cosa, diciamo, molto nelle nostre corde, proprio perché noi ci rivolgiamo a un pubblico di lettori che vorremmo attivi, consapevoli e non passivi. In questo senso la proposta che ci è venuta da BNL è stata una proposta che ci ha fatto piacere e che abbiamo accolto e che vorremmo cercare di sviluppare nel prossimo futuro, alla luce anche di questi primi incontri che hanno registrato un ottimo consenso. Ancora una notizia e poi passiamo al tema, appunto, il vino. Vedo già che alcuni contestano anche il fatto che il settore del vino vada bene, vi assicuro. Adesso ascolteremo la scheda, ma è così. Non ho detto che vada tutto bene, ho detto che rispetto a altri settori, o quasi tutti i settori produttivi di questo paese, questa è un'oasi felice. Dicevo, Parmalat, è arrivato Calisto Tanzi in ambulanza questa mattina alla Corte d'Appello a Bologna per l'udienza del processo di secondo grado sul crack Parmalat. Tanzi ha detto: porterò sempre il peso indelebile per le sofferenze causate a quanti per colpa mia hanno subito danni. Sono oggi pienamente consapevole degli errori che sono stati commessi. Bene, tardivo, ma va bene anche il pentimento. Diciamo che il peso indelebile degli errori commessi lo portano anche tutti i risparmiatori e gli azionisti di Parmalat. Anzi, soprattutto quelli. E poi ha detto Tanzi: mi pento per lo stato di esaltazione dell'epoca, non mi ha consentito di percepire che, celando le reali condizioni del gruppo, non sarei uscito dal tunnel dei debiti. Vabbè, adesso io non posso rifare una puntata su Parmalat, ricordo che al di là, diciamo, dell'aver truccato i conti, lì si è arrivati a fotocopiare, a incollare, a usare metodi, diciamo, quasi rurali per truccare questi conti, non che sarebbe cambiato qualcosa, ma qualcuno se lo ricorda il famoso conto Bonlat, no, dico. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo subito con la 46esima edizione del Vinitaly, padiglione 3, C3, per chi ci vuole venire a trovare. Intanto noi iniziamo a parlare del vino. E ne parliamo subito con il presidente, con chi ospita tutti qui, ossia la Fiera di Verona, il presidente della Fiera di Verona, di Verona Fiera, e quindi presidente anche del Vinitaly, il nostro ospite in studio, Ettore Riello. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie. Allora, al di là del caldo che ci sta praticamente sciogliendo, avete fatto un Vinitaly con date diverse, cioè dal domenica al mercoledì, non più il fine settimana, non dal giovedì al lunedì come eravamo abituati. C'è chi questa scelta l'ha criticata dicendo: attenzione, perdete il weekend. Voi in realtà l'avete fatta, se ho ben capito, per legare il Vinitaly ancora di più al mondo dei professionisti, cioè banalmente i ristoranti lunedì sono chiusi. Beh, io credo che, come tutte le cose, debbano essere sicuramente aggiornate e devono seguire quelli che sono i fatti del tempo. Il prodotto del Vinitaly è come un qualsiasi prodotto che richiede molta innovazione e anche molto coraggio. Come sempre, i primi passi non vengono accettati da quasi tutti, ma credo che molti ne siano stati estremamente positivi, proprio perché stiamo dando un'opportunità in più con cui questo mondo comincia ad affacciarsi anche su quelle aree come la ristorazione, l'hotelleria, wine bar. E quindi credo che sia una risposta seria, i primi numeri ci stanno dando ragione, quindi credo che abbiamo fatto una scelta giusta e che verrà consolidata definitivamente nel nostro pacchetto di calendario. Allora, i dati del rapporto Mediobanca mostrano un'industria del vino che è una specie di araba fenice, o meglio di isola dorata, perché con una produzione industriale che rallenta, con difficoltà di tutti i settori, l'industria del vino ha fatto più 9% in fatturato 2011 sul 2010 e più 104% negli utili nel periodo 2009-2010. Allora, è facile fare il Vinitaly con questi numeri? Assolutamente no, non credo che sia facile, perché questo qui è un trend che riguarda l'Italia, ma è un trend che riguarda anche altri paesi. Quello che c'è di bello è che invece proprio in Italia c'è un trend superiore a quello degli altri paesi, e quindi credo che per primo ci sia stato un grande lavoro sulla qualità del prodotto. Noi ci manca solo la grande determinazione di portarlo in giro per il mondo con la fierezza, la determinazione e soprattutto la consapevolezza che abbiamo per le mani un qualcosa di straordinario per il prodotto interno lordo. Quanti espositori avete, buyers e visitatori vi attendete? Beh, espositori siamo oltre i 4.300, che è un numero veramente molto importante, ce ne sono quasi un 20% che provengono dall'estero. Come visitatori, ovviamente con un giorno in meno saranno meno meno delle edizioni precedenti, ma l'afflusso giornaliero è come le precedenti, se non addirittura leggermente superiore. La cosa straordinaria è che ci sono veramente sempre di più presenze di visitatori stranieri, ormai sono oltre il 30%, e questo credo che sia veramente un grande gol, perché ci consente di arrivare in tutti i territori del mondo sempre con più determinazione. Chiudiamo sulla parte export, perché abbiamo detto all'infinito che i numeri del vino sono numeri fatti grazie ai mercati stranieri, non certo grazie a domanda interna. Cosa farà il Vinitaly, quindi la Fiera di Verona, su questi mercati? Voi da sempre andate, portate il Vinitaly all'estero, c'è chi lamenta una scarsa presenza o ancora una scarsa presenza sui mercati asiatici e indiani? No, in realtà credo che questo ormai sia il fatto del tempo, e dove oggettivamente, purtroppo, o se volete anche per fortuna, i nuovi mercati sono dei mercati molto lontani e spesso singolarmente le aziende hanno bisogno di un accompagnamento. Noi stiamo realizzando dei format, ovviamente con dimensioni misurate, da Hong Kong, dove siamo presenti alla fiera, perché la consideriamo e abbiamo condiviso con gli operatori italiani che questo sia la grande piattaforma per tutto il sud-est asiatico. Verso il Brasile c'è qualche problemino in più, perché c'è un costo doganale molto elevato, supera il 200%, e c'è un progetto che è in fase di esecuzione che raggiungerà il 40-50% di ulteriore aggravio. Se posso però dico attenzione al mercato italiano, perché questa grande sensibilità all'estero ci fa perdendo l'appeal sul nostro mercato, che sta divenendo terra di conquista dei nostri competitor dall'altra parte dell'Europa. Sì, sul Brasile poi so che ci sono grossi problemi, perché hanno dei dazi doganali che vogliono essere raddoppiati e molti produttori sono furiosi, anche perché lo sentiremo più avanti con Jacopo Biondisanti, ci sono produttori che hanno nel Brasile, è incredibile, ma il primo mercato di esportazione più ancora dell'America. Sì, si parla di un ulteriore aggravio del 40% su un costo doganale del 200% già esistente, quindi vuol dire, dico, che i prodotti subiscono, dico, un incremento tale che non consente più di avere nessun ruolo competitivo su un mercato di grande espansione. Quindi parliamo di un brick come un'area di conquista, senna renderci conto che in realtà hanno tirato su una barriera che non ci consente di arrivare neanche all'approdo del porto. Ecco, e questo è un tema di cui molti siamo occupati, i dazi loro, sbagliando a mio avviso, li applicano. E su questo anche l'Europa dovrebbe far sentire la sua voce. Noi siamo contro i dazi, ma contro i dazi dappertutto, non che quando vai in Cina, in questo caso in Brasile, ti trovi dei dazi impraticabili. Grazie al presidente della Fiera di Verona e quindi anche del Vinitaly, Ettore Riello. Buon Vinitaly a tutti e che sia veramente un grande successo per tutte le aziende italiane. E dateci un po' di aria condizionata. Assolutamente, quello ci pensiamo noi. Sì, nell'attesa che ci pensiate. Grazie ancora al presidente della Fiera di Verona, Ettore Riello. C'è qualcuno che mi scrive: più che tanzi furono le banche, che hanno le banche il peso sulla coscienza per aver piazzato i titoli Parmalat. Vabbè, non possiamo fare la puntata su Parmalat. È vero anche questo, tanto la mia opinione la conoscete, sì, nel caso Parmalat anche le banche, ma le banche soprattutto nel caso Cirio. Adesso però basta, su Parmalat e su Cirio, i numeri che citavamo, intanto gli ospiti che ci hanno raggiunto oltre al presidente della Fiera di Verona, e mi riferisco a Lamberto Gancia, che è presidente di Federvini, quindi l'associazione degli industriali del vino, se possiamo dirlo così. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Grazie anche al general manager del gruppo Italiano Vini, Davide Mascalzoni. Buonasera anche a lei dottore. Buonasera. Come sempre lo ricordo, il gruppo Italiano Vini è il primo per produzione e fatturato, ecco perché l'abbiamo scelto nella parte più istituzionale. Poi ci saranno molti altri produttori, non se ne abbiano a male, in questo caso ragioniamo in termini solo economici. Grazie anche al collega Nicola Dante Basile. Nicola, buonasera. Buonasera. E tu ci aiuterai a fare un po' anche così il grillo parlante di questo Vinitaly, dove tutto va bene, non voglio rovinare questa immagine. Sono molto d'accordo, non è che tutto vada bene. Perfetto, allora fammi ascoltare ascoltare i numeri sul settore, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi mi dici perché ho detto l'ennesima cavolata. La scheda. Sarà il fascino di qualcosa che viene da lontano, o il fatto che le economie dei leader storici del vino mondiale non sono particolarmente in salute, mentre i paesi emergenti sono sempre più assetati di vino, o che le iniziative promozionali per allargare i mercati sono sempre più incisive. Fatto sta che sempre più spesso il vino viene consumato lontano dal paese in cui viene prodotto. Se negli anni 80 nel mondo veniva venduta all'estero una bottiglia su 5, oggi il rapporto è di 1 a 3. Un andamento esterofilo che compensa il calo dei consumi interni dei maggiori produttori di vino. Non fa eccezione l'Italia, dove il consumo pro capite è sceso nel 2011 a 40 litri, un terzo rispetto agli anni 70. A fare da contraltare in positivo l'export, che lo scorso anno è salito del 12% in valore, a 4,4 miliardi. Export dunque come risorsa, ma anche via obbligata per i più importanti produttori, visto che il consumo mondiale del vino, da qui al 2015, è previsto in salita del 6%, superando 34 miliardi di bottiglie. A fare da traino i paesi che di vino ne producono poco o nulla. Sugli scudi le economie emergenti, come dimostrano i numeri del nostro vino. In Cina le esportazioni sono cresciute dell'87% sul 2010, in Russia quasi del 50%. Senza contare i paesi già amanti del vino, ma in cui le importazioni sono frenate da pesantissimi dazi doganali, come India e Brasile. Curiosa è, infine, la classifica dei paesi che sono disposti a pagare di più per bere made in Italy. Al primo posto gli Emirati Arabi, con 5,20 euro al litro, su una media mondiale di 2 euro. Seguono Svizzera, 4,15 euro, e Canada, 3,77 euro. Vero boom in Russia, da 1,03 euro del 2010 a 2,6 euro al litro del 2011. I nostri due maggiori clienti, invece, Stati Uniti e Germania, spuntano rispettivamente 3,32 e 1,44 euro. A metà, la terra promessa cinese, 2,37 euro al litro. Allora, è chiaro che se andiamo a vedere i volumi e il fatturato, i mercati più interessanti restano quelli tedesco, americano, e non solo, e anche russo, però a noi interessano anche le tendenze, ed è giusto segnalare come si stiano spostando lentamente, con molta difficoltà, però anche come si stiano muovendo dazi permettendo i paesi cosiddetti BRIC. Nicola Dante Basile, non voglio rinunciare alla tua provocazione. Perché non va tutto così bene nel settore del vino? Perché non va tutto bene per la semplice ragione che non è solo l'export. L'incremento dell'export che c'è stato non è riuscito a coprire il gap la diminuzione dei consumi che c'è stato sul mercato domestico. Perché si parla dell'1 qualcosa per cento, ma alcune fonti dicono anche del 3%. Quindi questo porta, siamo a 40 litri, sono ancora tanti, qualcuno dice che sono ancora tanti, però è anche vero che quel tanto, non tutte le aziende esportano, non tutte le aziende che esportano riescono a portare a casa i soldi, perché anche, c'è un problema anche di pagamenti anche sui mercati esteri. In Italia sappiamo che c'è stato un decreto di recente, un decreto del nuovo governo quantomeno quando verrà introdotto, permetterà il pagamento entro 30 giorni per i prodotti freschi e 60 giorni per i prodotti non freschi, ma per quanto riguarda i paesi esteri, quando pagano, questo i produttori non lo sanno ancora, o meglio non lo sanno, qualcuno lo sa perché ha qualche ritardo, non tutto va sempre bene, insomma. Ecco. Allora, ci siamo già con le provocazioni, o meglio le analisi, io le chiamo provocazioni più strutturate, e vorrei riprendere anche quella del Presidente della Fiera, Ettore Riello, che dice attenzione alla domanda interna, cioè non pensare che qua si possa solo esportare. Intanto però Lamberto Gancia e poi Tommaso Calzoni, insomma, io ho capito che non è il paradiso, ma possiamo dire che le cose vanno bene, oppure va bene Nicola Dante Basile a mettere in evidenza che non tutto si riesce a compensare? Se si può fare un esempio col bicchiere, indubbiamente la parte mezza vuota è che si sta consumando. La parte sul consumo indubbiamente sta aumentando, per fortuna i consumi mondiali tengono, aumentano, ci sono nuovi paesi che sono sempre più interessati al vino, la parte invece è mezza piena, che c'è ancora del vino comunque da vendere, quindi bisognerebbe incrociare i dati di sell in con sell out e non generalizzare, perché ci sono tantissime delle 500 appellation italiane tra doppio CG e GT, alcune che vanno molto bene, altre che comunque soffrono. Se vediamo oggi il Prosecco ha spumantizzato il mondo con una bollicina o con uno spumante, chiamiamolo come vogliamo, più morbida, più facile, sì, in un momento in cui lo champagne è andato in crisi. L'Asti, che a suo tempo ha avuto dei momenti di grandi auge, poi ha avuto crisi, oggi va benissimo, ma il Moscato è esploso in America. Rispetto, quindi le grandi indicazioni geografiche italiane come DOCG, Barolo, Barbaresco e Brunello stanno avendo un grandissimo successo. Ci sono alcuni mercati veramente che vanno forte. La cosa da stare attenti è sicuramente il mercato italiano, perché nel mercato italiano c'è una crisi di consumi indubbia, però si beve meno ma meglio. L'altro fatto positivo del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto è che comunque il consumatore sta andando verso la qualità e devo dire al Vinitaly si sta percependo questa volontà di tutti i produttori di puntare più sulla qualità che non sulla quantità e volumi, e quindi sui valori aggiunti e si cerca sempre un qualcosa di più da dare al consumatore, anche il fatto dei vini biologici per esempio, che hanno uno spazio. Da poco ho concluso col ministro Clini un progetto di presentazione sulla sostenibilità, quindi il rispetto del pianeta, cioè ci sono tanti progetti interessanti che stanno andando avanti. Allora, dottor Mascalzoni, voi avete 368 milioni di euro di fatturato, siete il primo gruppo in Italia, fate 105 milioni di bottiglie. Sì. La domanda è molto semplice, per riallacciarmi a quello che diceva Riello, ma anche a quello che diceva Nicola Dante Basile: riuscite a vivere di solo export con questi numeri, no? No, il mercato italiano resta indubbiamente importante anche per noi, ce l'abbiamo nel nome, ci chiamiamo Gruppo Italiano Vini, quindi non possiamo prescindere da questo mercato. Devo dire che forse a differenza un po' dell'Italia del vino in generale, noi sui mercati esteri ci siamo da tantissimi anni, noi veniamo già dai primi anni 90, siamo sempre stati... Quant'è la vostra quota di export? Era il 70%, l'è stata per 20 anni, devo dire che abbiamo un'inversione di tendenza se vogliamo, nel senso che le ultimissime operazioni che abbiamo fatto, cioè la distribuzione della Carpenè Malvolti in Italia e l'acquisizione della Cavicchioli, ci hanno spinto ad essere ancora più presenti in Italia, perché sull'estero comunque era un processo di crescita che è partito da molto lontano. Negli Stati Uniti la nostra società l'abbiamo acquisita nel 93, in Francia addirittura dall'86, quindi il 70%, il 30% era per noi, certo, una proporzione che penso rappresenti bene l'equilibrio tra l'Italia e l'estero. Chiaramente l'Italia per noi resta importante e indubbiamente oggi ci sono notevoli difficoltà ad esserci. Torneremo a parlarne dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriveremo a commentare anche la borsa, non si preoccupino i puristi della finanza, più 0,80% comunque Piazza Affari nel finale, peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, Finmeccanica ha perso l'1,5%, il miglior titolo Azimut più 4,70%. Vorrei però tornare sul tema del vino. Molti di voi ci stanno scrivendo: ma si beve meno in Italia per i controlli. No, abbiate pazienza, i controlli si fanno e basta. Vedo che Lamberto Gancia scuote la testa, ho capito, però non possiamo far passare che per tenere sulla domanda interna abbiamo la gente ubriaca al volante, abbiate pazienza. Molti di voi chiedono sui prezzi, sì, ragioniamo anche di prezzi, però Presidente Gianni Zonin, che ci ha appena raggiunto, presidente dell'omonimo gruppo, oltre che della Banca Popolare di Vicenza, quindi mi interessa anche il doppio ruolo. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Avete sostanzialmente un andamento anche voi positivo, sia come volumi che come fatturato. 126 milioni di euro di fatturato, detto bene? Esatto. E 30 milioni di bottiglie. Le domande a cui hanno risposto già i suoi colleghi prima. E cioè, la quota italiana si è compensata con l'aumento dell'export, come dicono i numeri aggregati, oppure no, come sottolineava in maniera un po' provocatoria Nicola Dante Basile? Da molti anni c'è un calo di consumi del vino in Italia che noi reputiamo sia nell'ordine fra l'1 e il 2% annualmente. Assolutamente sì, direi che viene compensato dalla esportazione dei nostri vini, che sta incrementandosi annualmente a ritmi molto importanti. Lo scorso anno Abbiamo esportato 24 milioni di ettolitri, tenendo conto che la vendemmia del 2011 ha dato 40 milioni di ettolitri, vuol dire che i consumi dell'esportazione hanno superato i consumi interni. Presidente di Federvini, Lamberto Gancia, veniamo anche al che fare, diciamo, per usare un termine un po' leninista. Allora, avete dei numeri buoni, molto buoni sull'export. Questi sono stati anche raggiunti, ce lo racconteranno poi anche altri produttori, utilizzando anche bene i fondi che l'Europa ha messo a disposizione, questo va riconosciuto. Per la prima volta negli ultimi due anni si sono potuti investire nei mercati al di fuori della comunità parecchi milioni di euro, coinvolgendo gli importatori, facendo squadra anche tra più aziende come singola azienda. Questo è il frutto indubbiamente di una semina positiva proprio in quei mercati come Cina, come Stati Uniti, ma la stessa Svizzera che poi al di fuori ha reso in parte. Quindi bisogna continuare su questo. Sicuramente si dice fare squadra, che è una cosa banale, però è molto importante, perché presentarsi come Made in Italy, legandosi sicuramente allo style life, alla moda quindi e al food, e spiegare che cosa c'è dietro ai nostri straordinari territori sarà il segreto del futuro. Noi siamo ancora indietro, per esempio, in Cina rispetto alla Francia, perché le nostre eccellenze non sono ancora spiegate bene ai consumatori locali. E quindi un accordo anche tra grandi produttori Vinitali. Prima Troriello ci diceva: sì, noi continueremo a portare Vinitali all'estero. Cioè, che cosa fare in più in una battuta? Certo, utilizzare tutti i mezzi che ci sono, sicuramente il mondo feristico per alcuni produttori può funzionare, ma far anche sfruttare bene le strutture che le aziende hanno, su cui hanno investito all'estero, per cui di fatto chi controlla il mercato sul breve ha più successo. E poi lavorare anche su alcune tipologie di prodotti particolari che in questo momento stanno piacendo particolarmente, perché il gusto italiano piace. Quando il consumatore beve un bicchiere dei nostri prodotti, poi resta fedele. Allora, dottor Mascalzoni, i prezzi, perché voi, insomma, primo produttore, anche a Zonino chiederò, avete tutte le fasce, non è che facciate solo la fascia alta, come diceva giustamente prima Lamberto Gancia, bisogna spostarsi sempre più lì perché c'è molto valore aggiunto, ma Ettore Riello e Nicola Dante Brasile dicevano attenzione al mercato interno. I prezzi quanto contano, e mi dice dov'è che ancora non ci siete come esportazioni? Sì. I prezzi contano sicuramente, non è l'unico elemento importante, però di questi tempi diciamo che la loro importanza è cresciuta. C'è da dire una cosa però, che e questo secondo me è un segnale, dovrebbe essere un segnale positivo anche per il mercato interno, che penso che mai come oggi c'è la possibilità di bere una bottiglia buona, qualitativamente buona, da tanti produttori a prezzi accessibili. Penso che sia un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, e questo è un vantaggio che il consumatore dovrebbe percepire e dovremmo essere anche noi probabilmente più capaci di comunicarlo. Sui mercati esteri noi siamo partiti, come dicevo prima, molti anni fa nei mercati tradizionali. Cioè Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania. Esatto. E pensiamo che questi mercati restino ancora importanti, perché ricordiamo ad esempio gli Stati Uniti l'anno scorso sono diventati il primo paese consumatore al mondo in termini assoluti, hanno superato Francia, hanno superato Italia, e quindi restano mercati molto importanti. Tra quelli emergenti, diciamo così, noi pensiamo che soprattutto Russia e Cina siano quelli dove, con ancora qualche punto di domanda, però nessuno di voi mi parla mai dell'India, eppure dall'India noi vediamo segnali interessanti. No, lo dico come inciso, prego, l'ho interrotto. Russia e Cina pensiamo che siano quelli col potenziale più alto. C'è qualche punto di domanda, non è tutto oro quello che luccica, però penso che il vino italiano non possa prescindere da quantomeno studiare e approfondire questi mercati. L'India lo vedo meno rispetto a questi due, vedo prima il Brasile, nonostante le difficoltà dei dazi. Diciamo che il problema dazi e tasse anche in India è elevatissimo, forse anche la cultura è ancora più lontana, fattori religiosi, ci sono una serie di elementi che forse l'India la fa tenere un po'. Beh, una cosa interessante piano, che sentiremo domani parlando con la famiglia Nonnino, che la grappa in Cina sta andando fortissimo, perché c'è un'abitudine culturale a bere comunque spirits in Cina, e hanno trovato una cosa incredibile, insomma la grappa ha una grossa penetrazione, chissà che non fermeremo, diciamo, la crescita cinese a botte di grappa, così torniamo a crescere anche noi. Presidente Zonin, dopo il traffico La stessa domanda anche per lei sui prezzi, ma anche sulla finanziarizzazione del vino. Cioè, se si vuole stare sui mercati lontani, inutile girarci attorno. Occorre avere le spalle grandi, o perché sei in rete, sei in filiera, sei in distretto, si direbbe, oppure perché hai dietro le banche che ti aiutano con le linee di credito e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta nella prima parte di Focus Economia. Allora, sempre qui dal Vinitaly, sempre padiglione 3, C3. Ospiti delle cantine Ferrari, basta bere Barisoni, faccia la borsa. Allora, A, lo so che non mi crederà, ma non ho ancora bevuto nulla per oggi, chiaramente. E la borsa la facciamo appena abbiamo finito l'approfondimento. Abbiate pazienza, tanto più 0,80% oggi non c'è grande notizia. Presidente Zonin, allora, i prezzi, molti ascoltatori al 349-238-6666 fanno notare che più che il prezzo allo scaffale è il prezzo al ristorante che diventa al 300-400% di ricarico, diventa inaccessibile. E come si fa ad andare su mercati così non lontani ma anche grandi, perché non è solo la distanza? Che spalle devi avere, che cosa può fare anche il mondo bancario, visto che lei è la doppia veste anche di presidente della Popolare di Vicenza? Ma i prezzi, direi che c'è una forbice che valorizza il centro del prezzo e penalizza i punti apicali e i punti bassi. Se noi guardiamo nella grande distribuzione, notiamo che i prezzi più, la fascia di prezzi più bassi ha perso circa un 3% di consumi, di vendite, e ha perso di più la fascia alta. Invece la fascia intermedia, parlo fra i 5 e i 10 euro lo scaffale, è quella che ha guadagnato 2011, quindi in un momento anche di crisi di consumi interni, ha guadagnato il 5%. Quindi questo è un segnale che il consumatore vuole un vino di qualità sempre di più, è sempre più esigente, è sempre più informato, e questo Vinitaly, che sta dimostrandosi un successo anche quest'anno, porta una quantità incredibile di appassionati che vogliono conoscere il vino, vogliono capire il vino e vogliono consumare il vino. Per quanto riguarda l'estero invece... È la finanza. Per affrontare i mercati esteri bisogna avere certe dimensioni. Allora, se noi pensiamo che solo nel 2000 avevamo 690.000 viticoltori in Italia, oggi ne abbiamo circa 350.000. È dimezzato il numero, però è raddoppiata la superficie media del vigneto. Vuol dire che c'è una forte spinta alla crescita dimensionale, che è l'unica che ci aiuterà ad affrontare i mercati globali, come si sta dimostrando oggi. Ma lei, quando fa il banchiere, se arriva un'azienda vinicola che deve esportare, la tratta meglio o peggio, non so, di una metalmeccanica? Meglio perché tutte perché le aziende che esportano vengono guardate con una particolare attenzione dal nostro istituto. Abbiamo 5 uffici di rappresentanza: Hong Kong, Shanghai, Nuova Delhi, San Paolo in Brasile e pochi giorni fa a New York, perché pensiamo che la salvezza dell'economia italiana dipenderà da quanto noi siamo capaci di aumentare le esportazioni in tutti i settori e in tutti i campi. Quindi l'input che il nostro consiglio di amministrazione ha dato: aiutiamo le imprese, soprattutto quelle che esportano. E quindi è evidente che anche sotto il profilo finanziario, visto che crescere costa, ci vogliono più capitali, e una banca vicino come la Banca Popolare di Vicenza, sono sicuro che sarà di valido aiuto per conquistare nuovi mercati. Ecco, io stiamo per chiudere questa prima ora e sto per ringraziarvi, però una domanda non gliela posso fare: come vanno i crediti alle imprese? Avete, con quello spread basso avete un po' allargato, perché anche voi... Allora, qui parlo di tutte le imprese, non parlo solo di quelle del settore vitivinicolo. Allora, tutti quelli che sono qui al Vinitaly, tutti che hanno lo stand, sono qui per vendere vino. Se uno viene e non gli diamo il vino, vuol dire o che l'abbiamo finito, ma non succede spesso, oppure che non hai i soldi per pagarlo, e allora è meglio forse non venderlo. Io credo che per le banche è la stessa cosa. Il mestiere delle banche è quello di prestare i quattrini. Con una sana e prudente gestione, ma prestarli. Con una sana e prudente gestione. Quindi se non si fa vuol dire che non c'è liquidità e forse bisognerà chiedere qualche responsabilità a una certa signora Merkel. Mi pare che adesso le cose siano cambiate. Ecco, il governatore Draghi, oggi presidente della BCE, ha dato molta più opportunità alle banche di fornirsi di liquidità. Credo che le banche stanno facendo bene il proprio lavoro. È evidente che c'è più attenzione anche in futuro alla qualità del credito. Allora, io non voglio rovinarmi una puntata con, di nuovo parlando di banche e imprese, quindi lascio qui il tema, perché dato ce ne occupiamo ogni giorno. Vorrei restare con questo clima da Vinitaly, se poi andiamo dentro un dibattito lunghissimo. Io ringrazio rapidamente, prima del GR, Lamberto Gancia, presidente di Federvini, grazie, il dottor Davide Mascalzoni, general manager del gruppo Italiano Vini, e il presidente di Zonin, nonché la Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. GR, poi di nuovo in diretta, borsa, monti in Asia e le addizionali IRPEF, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal Vinitaly, 46esima edizione, padiglione 3, C3, ospite delle cantine Ferrari, e Nicola Antibrasile sta assaggiando un Giulio, certo, 18:08, non 17, perché non ho ancora bevuto, anche se non sembra, ma sono le 18:08. Dunque, arriviamo alla borsa e poi alle addizionali IRPEF e al viaggio di Monti in Asia. I temi di nuovo molto più seri, però vorrei chiudere con Nicola Dante Basile, perché i numeri li abbiamo ricordati, molti ci hanno chiesto, sì, ma quanto vale complessivamente? Vale 10 miliardi di euro il fatturato delle aziende vinicole italiane, e una bottiglia su 5 al mondo, vediamo, il 20% è tricolore, questo ci rende chiaramente contenti. Abbiamo già detto dell'export record a 4 miliardi e 4, se contiamo le 160.000 imprese vitivinicole produttrici, 338.000 aziende agricole, gli addetti diretti sono 700.000, ma con l'indotto stiamo parlando di un settore che ha 1.200.000 persone che ci lavorano in maniera diretta o nell'indotto. Quante sono le etichette in questo paese, volete sapere? E riusciamo a rispondere anche a questo: le etichette sono 1 milione all'incirca. Non le abbiamo contate tutte, né le abbiamo assaggiate tutte, assolutamente no, però ci ripromettiamo di farlo con calma. Allora, sono anche, Nicola, troppo. Ti hanno convinto le risposte di Lamberto Gancia, del numero uno del gruppo Italiano Vini, Mascalzoni, e di Gianni Zonin, oppure il settore va così bene, e sappiamo che in questo paese la paura fa le 90, che tutto sommato, finché tu hai questi numeri, sì, puoi migliorare, ma la spinta vera, la paura, ti manca? Diciamo che quello che hanno detto i nostri ospiti, sostanzialmente hanno raccontato le cose come stanno, però è emerso comunque che c'è uno zoccolo duro che noi stiamo cercando, stiamo in qualche modo trascurando, se vogliamo, il mercato interno. Il mercato interno, 40 milioni di bottiglie, di ettolitri prodotti e 24 milioni consumati all'estero e 23, quindi quest'anno per la prima volta, o meglio, l'estero 2010, pesa di più. L'estero è pesato di più, però non è che questo voglia dire che il mercato nazionale sia una cosa da scartare. Bisogna insistere in che modo? Trovare delle soluzioni, le stesse aziende devono trovare delle soluzioni che siano di promuovere il vino italiano, perché noi si fa promozione all'estero, ma la comunicazione, le aziende, le imprese, ben poco fanno in Italia, al di là, diciamo, delle solite incontri che si fanno con No, capito, dici, sono tutti estero. Bisogna organizzare la promozione in Italia. Per quanto riguarda l'estero, forse non lo abbiamo ancora detto, non è stato ancora messo in evidenza, l'OCM Vino ha riservato una nuova voce della promozione, stanziando 80 milioni per l'Italia nel 2011, fondi europei per promuovere il vino nei paesi terzi. Nel 2010, nel 2012 saranno 80 milioni di euro. Questi soldi vanno alle aziende che fanno, aziende, consorzi, istituzioni che fanno promozione, ma sono tutte iniziative in qualche modo singole oppure di piccoli gruppi. Cioè, manca il sistema. E lo si vede anche che la mancanza dell'ICE, esiste un ICE che è stato ripristinato dal nuovo governo Monti. Sì, non se ne è accorto ancora nessuno. E tant'è che lo diciamo anche al ministro Passera. Date un corpo, un volto, un'anima a questa nuova ICE, perché andare all'estero con quello che fanno i francesi, visto che i concorrenti restano loro, con la capacità che hanno da macchina da guerra di muoversi con lo Stato, con gli enti locali, con i produttori e anche con le banche. L'ICE non ha un euro a disposizione, sta lavorando oggi con i soldi del 2010. con i residui che sono rimasti nel 2010. Questo è tutto. Allora, per concludere, lasciate a me, è giusto non essere mai soddisfatti nella vita in piccole dosi, perché se no uno si siede. Stiamo parlando, l'abbiamo detto fino all'assunimento, di un settore molto sano, anzi ancora più in salute rispetto a anni fa. Zonin ricordava prima come si siano ridotte per fortuna le imprese, i produttori vitivinicoli, quindi le dimensioni stanno leggermente aumentando. Si può fare, devo dire da giornalista, la cosa più interessante è che pensavo di trovare questo grande entusiasmo per l'export, che va benissimo, noto invece un po' di preoccupazione sul mercato interno, forse si ha timore che poi di dimenticarsi dei consumi italiani. Nicola, in una battuta. Una cosa semplice, che è diverso da quello che abbiamo detto fino adesso: mi giungono notizie dai paesi dell'est europeo, dove ci sono state delle gelate che hanno distrutto gran parte dei vigneti di alcuni paesi. Andiamo tutti in Ungheria a esportare. Non so se l'Ungheria è colpita, ma certamente diversi altri paesi. O comunque andiamo su quei mercati abituati a importare vino dall'est Europa. Se questo è vero, bisogna fare attenzione. Mm-hmm. No, e andarci, soprattutto. Esattamente. Grazie anche al collega Nicola. Grazie. Dante Basile. Cambiamo adesso radicalmente tema, è il momento della borsa, in leggero ritardo, non la borsa del vino ma la borsa di Piazza Affari, più 0,80% oggi, 349-238-6666 per i vostri sms. Azimut più 4,70, Luxottica più 2,90, Saipem più 2,60, Impregilo più 2,40, come Parmalat il 2,15, l'ha guadagnato di Assorin, il 2% Ansaldo CTS, l'1,90 Snam, l'1,80 Telecom, ma anche Xor, l'1,70 Eni e anche Terna, l'1,5 Campari e poi Tenaris più 1,4%. Giornata positiva su tutti i listini oggi, Parigi più 0,70, devo dire bene anche l'America più 0,90, sugli indici più 0,80 sugli indici principali. Da noi ha perso Finmeccanica meno 1,5%, Intesa San Paolo meno 1,15%. E allora, come sempre, con Radio Cori, il Sole 24 Ore, il commento di borsa. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Andiamo rapidi, purtroppo. Allora, tra l'altro, io partirei da Finmeccanica da un lato e Azimut dall'altro. Certamente. Dove c'è anche un articolo del Sole 24 Ore su Azimut che... Sì, certamente per quanto riguarda Finmeccanica l'attesa e il timore è per i conti che verranno pubblicati domani. Ricordiamo, erano già stati previsti per un paio di settimane fa e il CDA sui conti è stato spostato a domani. Il mercato teme il peggio, cioè teme rilevanti svalutazioni e perdite consistenti. Oggi il Financial Times fa proprio un focus su Finmeccanica, attendendosi perdite per 2,3 miliardi di euro, quindi l'attesa dei conti Finmeccanica pesa sul risultato di oggi. Per quanto riguarda invece Azimut, tu ricordavi l'articolo del Sole 24 Ore, il focus fatto ieri dal Sole 24 Ore sulle strategie di Azimut sui mercati nuovi, sui mercati BRIC, quindi sull'America Latina, oltre che sulla Cina, sulla Turchia, e quindi questi sono gli obiettivi per il 2014. Sono piaciuti al mercato, il titolo ha fatto più 4,7%, è stato il migliore del FTSE MIB. Allora, le borse in Europa oggi sono tutte positive perché, come ricordavamo in apertura, c'è stata questa apertura, scusate gioco di parole, di Angela Merkel a un aumento della dotazione del fondo salva stati a livello europeo. E poi un indice, quello non l'abbiamo detto e vale la pena recuperarlo, l'indice IFO, l'indice sulla fiducia tedesca, è buono. Domani, anzi no, mercoledì, diffonderà i conti UBI Banca. Lo dico perché il titolo oggi è debole, Intesa perso l'1,15 ma UBI l'1%. Esatto, un po' i bancari sono stati un po' tutti deboli, Intesa San Paolo è stata la peggiore, UBI Banca ci si attende, come ormai un po' per tutto il settore bancario, delle svalutazioni che possono riguardare soprattutto gli avviamenti. Ci si attende per UBI, lo ci si attende anche per la Popolare di Milano, che ha perso lo 0,5% ma che nel pomeriggio è stata anche più debole, quindi questo un po' pesa sul settore bancario, che è stato quello un po' più negativo, insieme anche a alcuni titoli di energia come A2A dopo i conti di venerdì, e Enel che è stata appena sotto la parità, ha perso lo 0,07%. Chiudiamo con, prima di arrivare ai migliori e peggiori, Saipem bene, più 2,66%, ha annunciato oggi dei contratti importanti, quasi 300 milioni di dollari. Esatto, questo è stato il motivo che ha spinto Saipem oggi, i nuovi contratti nelle perforazioni, valore complessivo di circa 300 milioni di dollari, questo è stato un po' l'elemento che ha spinto il titolo, mentre insieme a Saipem si è mossa bene anche in pregilo, è continuata la battaglia per il controllo tra la famiglia Gavio, che ormai ha il 29,9%, e i Salini, che oggi sono saliti al 25%, e sulla scia di questo e anche dei conti diffusi dalla società il titolo ha guadagnato il 2,4%. E poi Telecom Italia più 1,80%, ma è soprattutto T-Media, quindi la società che è controllata da Telecom Italia, che ha in pancia la 7, ma non solo, ad andare bene oggi. Voci di un possibile interessamento? Sì, l'interessamento di Cairo, del gruppo di Urbano Cairo, di cui si era già parlato nelle settimane scorse, è tornato a circolare sugli organi di informazione nel weekend e anche oggi, un interessamento per una quota di minoranza. Da tempo Telecom Italia Media annuncia di essere alla ricerca di un partner strategico, finora non l'ha trovato, sempre quando ci sono stati questi annunci il titolo ha reagito molto bene, e oggi ha guadagnato anche oltre il 6% e poi ha chiuso a più 3%, quindi questo partner strategico, se arriverà, vedremo se farà veramente emozionare il mercato. Nel frattempo Mondo TV più 19,96, miglior titolo, e poi Grandi Viaggi più 5,20, Fiera Milano più 4,23, peggior titolo Meridiana Fly meno 9,90 e Sopaf meno 4,19%. Segnalo che due cose che riguardano il mercato: la Fiat, secondo l'agenzia russa Interfax, aprirà una fabbrica di SUV a San Pietroburgo, il gruppo Fiat Chrysler, per arrivare a una capacità produttiva di 120.000 SUV all'anno, e un investimento di 1,1 miliardi di dollari in Russia, San Pietroburgo. Nel frattempo bene il fatturato di Costa Crociere, che però non integra ancora il disastro e il dramma della Concordia. Comunque Costa Crociere oltre i 3 miliardi di euro il fatturato, più 9,6%. E chiudiamo con l'ufficializzazione del nuovo amministratore delegato dell'Alitalia, e infatti è stato oggi nominato Ragnetti come nuovo amministratore delegato della nostra compagnia ex di bandiera. Adesso il traffico, grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, dopo aver dedicato buona parte del programma al vino, giustamente, saremo al Vinitaly anche domani, poi mercoledì torniamo invece negli studi a Milano in via Monterosa. Vorrei collegarmi con chi sta seguendo il roadshow, roadshow dell'Italia, però illustrare le riforme italiane all'estero dopo la missione in Europa e quella negli Stati Uniti. È la volta dell'Asia. Mario Monti è appunto nella sua tappa ieri in Kazakistan, oggi la Corea, domani il Giappone, poi la Cina per 4 giorni. Si concluderà la missione del Presidente del Consiglio il prossimo 2 aprile. Gerardo Pelosi, l'inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Gerardo. Buonasera a voi. Noi siamo qui a Vinitaly, non so chi di due stia meglio, però io sono davanti a delle bottiglie di vino italiane, di un albergo, spero, di Seul, che però costano, credo, non so, una Valpolicella, qualcosa come... Forse questo anche per l'alto prezzo dei dazi. Che sono anche poi uno degli elementi delle... Quanto costa Valpolicella lì a Seul? Quanto costa? Credo che in won, il comparato in won, da won a euro, non meno di 60-70 euro. Sì, siamo a 4-5 volte quasi il prezzo. Sì. No, no. Allora, no, io potrei parlare con te però vorrei capire. Monti oggi, da quello che abbiamo visto, ha detto: non sono come Andreotti, non tiro a campare. Ha citato la frase: meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Lui ha detto: a me non va bene nessuna delle due. E poi ha detto: se il paese non è pronto, potremmo non restare. Cos'è una risposta al PD di Bersani, alle tensioni sulla riforma del mercato del lavoro? Da quello, e anche Alfano non si vuole sentir preso, tirare per la giacchetta, ma è, diciamo, come Berlusconi aveva un poco le sue le sue leitmotiv, cioè non mi lasciano fare le riforme, non mi lasciano completare le riforme per il paese, eccetera. Monti ha quest'altro tipo di leitmotiv, che è dire: io sono venuto qui per fare questo lavoro, se non si ritiene che sia utile al paese me ne ritorno in buon ordine. Non è una minaccia, forse le agenzie hanno un po' estremizzato, non si tratta tanto di una minaccia quanto di ripetere quello che lui ripete da tempo. Però ecco, oltre al discorso del mercato del lavoro, sul quale ha parlato anche in aereo per spiegare che effettivamente da quando è al governo, e cioè da novembre, ha assunto delle decisioni difficili di cui ha sentito il peso, ma erano necessarie perché si usciva da circa almeno un decennio di mancate riforme, di mancata gestione dei fattori importanti e cruciali per la vita economica di un paese, che poi sono diventati criticità, vere e proprie criticità, nel momento in cui c'è stata prima la crisi finanziaria internazionale del 2008 e poi la crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona. Oltre al a questo proposito, Gerardo, l'altro elemento che abbiamo notato, che ha avuto anche un influsso, ne parlavamo prima, sui mercati, sono state queste dichiarazioni di Angela Merkel, sia alla BBC sia in un convegno, cioè una Merkel possibilista sull'ipotesi di aumentare il fondo, il cosiddetto firewall, il fondo che dovrebbe bloccare un eventuale attacco o rimediare un attacco speculativo sui debiti Monti europei. Ne ha parlato in maniera diretta, ha parlato di riforme europee con Herman Van Rompuy, col presidente del Consiglio UE, che si trova anche lui qui a Seul. In realtà stanno parlando tutti di tutto, forse tranne che di sicurezza nucleare, perché è una grande vetrina in cui i 53 capi di Stato e di Governo si vedono due volte ogni anno. Certo, l'aspetto della sicurezza nucleare è fondamentale, Obama ha avvertito la Corea del Nord e l'Iran, però poi in realtà ognuno si ritaglia i propri spazi di diplomazia economica, di affari eccetera, e l'Italia aveva presente con il primo ministro Singh la questione dei due Marò, ma aveva anche, come dire, la necessità di chiarire quali sono le riforme ai primi ministri di Singapore, della Turchia, del Canada eccetera. Con Van Rompuy probabilmente, anzi quasi certamente, non ce l'ha detto, ma Monti avrà parlato di questa disponibilità della Merkel ad aumentare il fondo salva stati. Per quanto riguarda l'Europa, lui ha spiegato che la complessità, e ha cercato di spiegarlo ai suoi interlocutori, la complessità della situazione europea è data da questi 17 paesi dell'euro che devono trovare delle forme per rispondere alla crisi e, per esempio, riescono a trovare dei meccanismi come quello per la crisi greca che unisce fiscal compact e firewalls per creare, come dire, una massa critica che da un lato eviti col firewall il contagio e con il fiscal compact cerchi di creare una disciplina. Cioè il fiscal compact è l'obbligo dei vari paesi a ridurre il debito al 60% nei prossimi 20 anni. Il firewall è invece la dotazione di questo fondo che, nel caso di nuovi attacchi speculativi ai debiti dei paesi più a rischio, Spagna ma anche forse Italia, possa intervenire subito. Gerardo, ti lascio a Valpolicella, un po' caro, non farlo sapere all'ufficio del personale del Sole 24 Ore, oppure fatelo a questo punto offrire. Ti lascio al Valpolicella a Seul e noi ci risentiremo domani, perché tu seguirai tutte le tappe del viaggio di Mario Monti in Asia. Vorrei concludere con una nota amara, peccato al Vin Italy, ossia le addizionali IRPEF. Ecco, dopo questo approfondimento verrà voglia di bere forse anche a me, perché le addizionali IRPEF si scaricheranno forse prima ancora dell'IMU. Saverio Fossati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. A te il compito di rendere amaro una puntata dolce, visto che siamo allo stand della Ferrari, vini. Allora, in attesa della botta dell'IMU, a quando arriverà la botta delle addizionali IRPEF e quanto varrà? E adesso arriva fra pochi giorni con la busta paga di marzo, quindi già diciamo dal 27 per molti italiani, ed è il risultato dell'incrocio di due fattori: il conguaglio dell'aumento delle addizionali regionali IRPEF 2011, che era stato deciso a dicembre, e l'acconto del 30% delle addizionali comunali IRPEF invece, che erano state sbloccate l'estate scorsa quando ancora c'era il governo Berlusconi. Questo farà sì che nel concreto in busta paga saltino dai 100 ai 200 euro, abbiamo fatto un po' di simulazioni già la settimana del 12 marzo, addirittura è stata fatta una serie di simulazioni, da 100 a 200 euro con stipendi diciamo dai lordi dai 16.000 ai 30.000 euro, cioè i classici stipendi medio-bassi, quindi più poi cresciamo con lo stipendio e più aumentano naturalmente, aumenta l'onere. Le addizionali sono state aumentate in moltissimi capoluoghi di provincia, comuni capoluoghi di provincia, ma anche in tanti comuni minori, non so, per fare qualche esempio, a Bari sono aumentate dallo 0,5 allo 0,8, a Brescia dallo 0,4 allo 0,55, sono tanti. E quindi si va da 51 euro in meno per un pensionato con 1200 euro a 73 euro in meno in busta paga per chi ne guadagna già 1700. E poi insomma, sono esclusi solo i lavoratori che guadagnano 8.000 euro l'anno. Grazie a Saverio Fossati, veramente adesso però pensando alle addizionali al Limu viene voglia di bere e soprattutto il programma è finito, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi sempre qui dal padiglione 3 C3 della Fiera di Verona. Da Sebastiano Berisoni intanto l'auguro di una buona serata e mi raccomando o si beve o si guida. Radio 24. La passione si sente.